amica, mec nonnetta, e scema furbo per ridere con te. Un picco mare, io vi do l'allegria e vi dirò.